nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma di Radio 24 che, oltre a ricordarvi ogni domenica che il multitasking è una fregatura inventata per farci sentire in colpa, noi signore che continuiamo a fare 100 cose, ecco, almeno la domenica no, e insomma, comunque, benvenuti alla trasmissione che su Radio 24 da 5 anni parla di tutti gli argomenti che fanno parte della vita di una donna, la carriera, il lavoro, i problemi legati alla convivenza con i colleghi, le tante tante questioni che possono riguardare famiglia, figli, insomma l'universo femminile è molto molto variegato e ci stanno poi tanti tanti e complicati e complicate, diciamo, questioni succedanee. Invece complicato non è per niente dirvi che siamo molto contenti del fatto che Nessuna è Perfetta sia sempre più popolare, sempre più seguita. Grazie dal mio cuore, dal cuore di tutti coloro che collaborano ogni settimana a questo programma e che poi ringrazieremo nel finale. Intanto grazie anche a voi che ci mandate dei bellissimi messaggi, 828 12 12 per il numero di casella vocale, e noi li ascoltiamo tutti e poi li facciamo ascoltare anche a voi. Per esempio, questo è uno di quelli che ci avete mandato sulla puntata della settimana scorsa. Buongiorno, allora sto ascoltando la vostra trasmissione su Nessuna è Perfetta, ho ascoltato gli interventi del precedente uomo che parla di ruoli importanti e ho già sollecitato un'altra volta, ma nel mondo della scuola ci siete entrati, sapete che le dirigenti scolastiche sono donne, è un ruolo importante, è un ruolo riconosciuto oppure sono solamente i presidenti della Repubblica ad avere una cassa di risonanza fondamentale in questa nostra società di maschi e dove appunto bisogna fare le leggi per le quote rosa quando ci sono altre realtà dove non esistono le quote rosa ma esistono le copresidenze. Vorrei sapere se sarebbe un argomento di vostro interesse oppure no. Vi ringrazio. No, è un argomento di nostro grandissimo interesse e tra l'altro il mondo della scuola è da decenni un mondo a prevalenza femminile, tante insegnanti hanno contribuito a tenere in piedi questo paese educando generazioni di italiani. Chi lo fa benissimo, chi lo fa bene, chi lo fa male, ma certamente il mondo della scuola è un mondo al quale diamo sempre molto spazio e ne parlo anche ogni mattina quasi a Radio 24 Mattino nello spazio che condivido con Simone Spezia. Però certo è un ottimo suggerimento, grazie alla nostra ascoltatrice che ha voluto stimolarci su questo terreno, e una delle prossime puntate sarà proprio dedicata al ruolo delle dirigenti donna nella scuola, quello che significa e quello che diciamo comporta svolgere un ruolo faticoso, pieno anche di tensioni con gli studenti, con i genitori. Ne parleremo, grazie di avercelo segnalato. Io vi ricordo 828 12 12 per tutti i vostri suggerimenti che per noi sono preziosi. E poi invece è il momento di dirvi di che parliamo questa domenica. L'ho presa lunga, ragazzi. Stamattina mi sono un po' allungata. Beh, allora, di che cosa parliamo? Intanto di soddisfazioni. Una volta tanto, lasciatemelo dire, che bella notizia vedere questo trio femminile dell'Istituto Spallanzani, le tre ricercatrici, Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita, Concetta Castilletti, che insieme ai due colleghi, splendido esempio di un team in cui la diversità ha prodotto un bellissimo successo italiano, un bellissimo successo per la ricerca italiana, l'individuazione del coronavirus, e l'Italia è arrivata tra le prime nazioni a individuarlo insieme all'Australia, alla Cina, all'Istituto dell'Istituto Pasteur di Parigi. C'erano, insieme alle tre ricercatrici che ho citato, i due colleghi Fabrizio Carletti e Antonino Di Caro. Ebbene, questo bellissimo team guidato da una donna, Maria Rosaria Capobianchi, al capo del laboratorio di virologia dello Spallanzani, è una bella soddisfazione. Ebbene, allora, è la settimana in cui appunto si parla moltissimo del team guidato dalla dottoressa Maria Rosaria Capobianchi, alla guida appunto del laboratorio di virologia dell'ospedale Spallanzani. Noi quante puntate qui a Nessuna è Perfetta abbiamo dedicato a donne e scienza, alla necessità di spingere le studentesse a non aver paura delle materie scientifiche, della matematica, perché c'è un gran bisogno di energie femminili in questi settori. Ne abbiamo parlato e continueremo a parlarne, perché non ci stancheremo mai di dire che donne e scienza sono un binomio da rafforzare nel nostro paese. Ma è un fatto che sempre più spesso ci sono dei team, nel caso dello Spallanzani per esempio, ma anche in altri settori, in cui la guida femminile si rivela vincente. Ed è proprio questo, della leadership femminile, che voglio parlare con l'ospite che avremo tra qualche secondo con noi. Di leadership femminile ha parlato in un bellissimo editoriale che molto mi è piaciuto sul Corriere della Sera il professor Francesco Giavazzi, economista, accademico ed editorialista del quotidiano di Via Solferino. Buona domenica, professore. Buona domenica. Quindi l'editoriale al quale faccio riferimento parte da una notizia, no? Dal 1993 l'India, il grande continente, la più grande democrazia, si dice, da quella parte del mondo, applica quote di genere nelle elezioni dei villaggi, dei consigli dei villaggi. E il risultato dell'applicazione delle quote è che la percentuale di donne fra i capi villaggio è cresciuta rapidamente, da meno del 5% a più del 40%. Un economista francese, Esther Duflo, lo scorso ottobre premiata col Nobel, ha studiato le differenze fra i villaggi bengalesi in cui il capovillaggio è donna e quello in cui è uomo, e ha scoperto delle cose molto interessanti. Quali, professor Giavazzi? Si è scoperto che nei villaggi in cui questa legge indiana impone che il capovillaggio sia una donna, le bambine, che tipicamente in India smettono presto di andare a scuola perché stanno a casa ad aiutare la mamma con i fratelli e le sorelle più piccole, invece stanno a scuola più a lungo, sia perché per decisione loro, sia perché le famiglie le tengono a scuola più a lungo. E poi, se uno le segue, come ha fatto Esther Duflo, nel tempo, vede che, non sorprendentemente, queste bambine poi nella vita fanno meglio perché hanno studiato di più, hanno imparato a leggere e scrivere, cose che se invece vanno via dalla scuola a 5 anni non facevano. E questo conferma un'osservazione molto più generale, cioè che qual è l'importanza dei modelli. Le donne capovillaggio sono un modello che influenzano le decisioni di altre persone. Un altro esempio che accade spesso è che, questo non solo in India ovviamente, ma che in una piccola comunità in cui una ragazza o un ragazzo eccelle in uno sport, poi ci sono altri che cercano di emularlo, e quindi questo diventa un villaggio dove molti praticano quello sport. Ma la differenza è che il successo dello sport è una capacità innata, cioè se uno ha un'attitudine per un determinato sport, mentre invece l'esempio di essere Duflo sui villaggi indiani è una caratteristica che si può in qualche modo accentuare, e la presenza delle donne leader nel villaggio l'accentua. Una piccola pausa, professor Giavazzi, e torniamo subito da lei. Nessuna è perfetta. Eccoci di ritorno col professor Francesco Giavazzi. Io non posso fare a meno di pensare, professore, ai modelli femminili che in Italia sono stati proposti negli ultimi 30 anni, quasi sempre fondati sull'avvenenza delle role model suggerite, quasi sempre ispirati a lavori che hanno a che fare con la presenza fisica e dunque personaggi televisivi, attrici, poi di recente pure influencer, e quanto poco invece sia stato fatto per insistere su role model che pure ci sono in Italia di grande prestigio, farle conoscere di più. Noi citiamo sempre Fabiola Gianotti, che è stata riconfermata al CERN di Ginevra, una gloria italiana, e per fortuna adesso con lo Spallanzani e con l'individuazione del virus che è stato fatto appunto dal team guidato da Maria Rosaria Capobianchi, ci siamo accorti anche delle tante ricercatrici che ci sono in Italia. Le posso chiedere intanto la sua opinione e poi perché negli ultimi 30 anni, non è una cosa di adesso, si è preferito insistere su modelli di pura superficie, no? Condannando appunto le donne a essere belle, e tralascio la polemica sulle frasi infelici del conduttore di Sanremo Amadeus dei giorni fa, perché si è dato poco rilievo invece ai contenuti che le donne italiane potevano portare e avrebbero potuto magari dare un contributo sicuramente più incisivo alla modernizzazione del paese? Io un'osservazione generale, secondo me, questo dovrebbe dire una donna, non io, non c'è una contrapposizione fra ad esempio la ricerca scientifica ed essere donna. A me colpisce, quando giro per la città, i manifesti del libro di Lilli Gruber sulle donne, e sotto nei manifesti c'è scritto "vogliamo il potere, puntini, ma anche le rose". Cioè, questo mi sembra un'immagine molto bella, che raccoglie questa idea, cioè che non si deve rinunciare alla femminilità, alla ricerca, ma alla ricerca. Cioè. Perché finora non è accaduto? Secondo me perché abbiamo vissuto fino a poco tempo fa in una società dominata dagli uomini, che avevano una visione, secondo me sbagliata, ma avevano una visione, imponevano una visione del ruolo della donna nella società. E la cosa interessante è che è cambiato qualcosa, cioè dal Me Too negli Stati Uniti è un caso in cui è cambiato molto rapidamente. Io vedo, quando giro per conferenze di economisti, per esempio alla fine di dicembre c'è stata alla Banca Centrale Europea una conferenza per la fine del mandato di Benoît Cœuré, che era uno dei membri del board della BCE, e c'erano dei panel in cui si discuteva di vari argomenti, e due cose mi hanno colpito. Prima, che eravamo alla BCE, quindi uno si aspetta di parlare di politica monetaria, di tassi di cambio, di interesse. L'argomento principale dei panel era l'ambiente, cosa si può fare per la sostenibilità. E lì, perché c'era la signora Ursula, del nuovo presidente della Commissione europea, che sta spingendo moltissimo su questo, e questo ha influenzato anche una conferenza lontana da quei temi come la conferenza della BCE. E l'altra cosa, altre due cose mi hanno colpito, che quei panel avevano quasi sempre una maggioranza di donne, cosa che non è così frequente. E seconda cosa, forse quello che per dire è poco politicamente corretto, ma erano donne che avevano tutte degli abiti con bellissimi colori, mentre invece fino a poco tempo fa ci si vestiva di nero, professore, per non dare nell'occhio, capito? Le donne economiste, quelle che sì, incontravo io, ce ne erano tante ai seminari, alle conferenze, avevano sempre un tailleur nero. Ecco, questo invece alla BCE, quindi non in un seminario in California, nelle sale austere della BCE, avevano dei tailleur con dei colori bellissimi, alcune preferenze individuali, scarpe con tacchi molto elevati, e poi però parlavano di ricerca. Ma infatti, quindi la cancelliera Angela Merkel, che ha sdoganato il colore tra le donne di potere, ha sempre queste giacche molto colorate, proprio perché non bisogna avere timore di mostrarsi femminili, proprio no. Professore, da economista... Le dico, posso dire una cosa? Sì. Lei ha citato la Merkel, c'è un esempio proprio di role model interessante. È una collega tedesca che ha una figlia che avrà, credo, 10-12 anni e qualche tempo fa, quando c'era il dibattito sulle elezioni americane, questa ragazzina guardava la televisione e vedeva tutti uomini, quelli Trump e così qua, e ha chiesto alla mamma: ma allora anche un uomo può essere presidente? Anche un uomo può essere presidente? Perché lei è vissuta in Germania, dove da 12 anni c'è una donna. Fantastico, fantastico, bello questa, mi piace questa visione rovesciata. Da economista, professore, che cosa stiamo perdendo e che cosa abbiamo perso sul fronte, appunto, della modernizzazione e anche della produttività italiana nel non aver utilizzato la forza, l'energia professionale e lavorativa delle donne in questo paese? Ricordo che la partecipazione alla forza lavoro delle donne in Italia è tra le più basse dei paesi OCSE. Allora, due cose: il fatto che la partecipazione alla forza del lavoro sia bassissima non vuol dire che le donne non lavorano, le donne lavorano più degli uomini. C'è un bellissimo libro di Alberto Alesini e Andrei Chino, pubblicato da Mondadori qualche anno fa, sul lavoro delle donne, dove cercano di misurare le ore lavorate dalle donne. Se uno tiene conto del lavoro in casa, lavorano più ore degli uomini che invece lavorano fuori, quindi è vero che non lavorano. Dopodiché, cosa si perde? Si perde, io credo, soprattutto la capacità di vedere un problema sia nella ricerca che in un'azienda da prospettive diverse. E la mia esperienza è che avere delle donne intorno a un tavolo quando si discute cambia spesso la prospettiva dei problemi, o aggiunge un modo di guardare ai problemi che in un gruppo di soli uomini spesso non c'è. E l'ultima cosa che le chiedo, tornando all'esempio indiano delle quote imposte per le elezioni dei capi villaggio, qui a Nessuno è Perfetta molto spesso abbiamo ospitato pareri contrari alle quote. Personalmente io sono assolutamente favorevole, e lei? In un mondo ideale le quote non dovrebbero esistere, perché le donne emergono per le loro capacità, però l'esempio del Bengala di essere Duffo ti fa vedere proprio che le quote sono importanti per rompere un equilibrio. Poi non è detto che devono andare avanti per sempre, no? Ma ci sono degli equilibri in cui le donne sono escluse e le quote sono il modo di rompere quegli equilibri. Proprio così. E voi cosa ne pensate, cari ascoltatori e cari ascoltatrici? 828 12 12 per lasciare i vostri messaggi vocali e dirci se siete d'accordo col professor Giavazzi, o se dissentite, o se avete qualcosa da suggerirci. Vi aspetto. Intanto ringrazio moltissimo Francesco Giavazzi per essere stato con noi questa domenica. Nessuno è perfetta. Grazie. Grazie. Un ragazzino che riceve una lezione di umiltà da un giovane arbitro. Mi ha colpito prima cosa lo sguardo, perché lui mi ha guardato dritto negli occhi, l'avevo colpito. Il tizio che invidia l'amico diventato un cantante di successo, una signora che riscopre il sesso a 86 anni. La signora, per motivi anagrafici, avrebbe potuto essere mia madre. Storie di invidia, di gola, superbia, lussuria, ma anche di eccessi di velocità, di cattivo gusto e di oblio. Storie di vita che parlano di vecchi e nuovi vizi capitali. Questo è ciò che raccontiamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra di Matteo Caccia, da lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Perché le linee d'ombra sono il confine tra ciò che sappiamo e non sappiamo del mondo, ma anche di noi stessi. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Nessuna è perfetta. La nostra Sunday Girl di questa domenica è una Sunday Girl che, nonostante tutto quello che diciamo sul multitasking, fa miliardi di cose. L'abbiamo beccata mentre tornava da un tour, dove direte voi, da dove? Dal supermercato, carrelli strapieni, sacchetti della spesa. Non solo, ma la sera prima, nella Notte dei Cristalli, lo spettacolo che è all'Eliseo fino al 16 febbraio, non perdetevelo, all'Eliseo di Roma, lo spettacolo Vetri Rotti, ispirato appunto a quella Notte dei Cristalli che è rimasta indelebile nella memoria di tutti, è grande successo. Non basta, la vedete sempre in TV, l'avete vista nei panni di una suora e non solo. Insomma, avete capito chi è la nostra Sunday Girl. Buona domenica, Elena Sofia Ricci. Buona domenica a tutti, viva i supermercati aperti la domenica. Domenica, sì sì, anche perché se no non sapremmo, in molti non sapremmo come fare, ma che hai comprato? Dici tutto. No, ho comprato un po' di sushi, perché siccome siamo rifiutando la cucina, cioè abbiamo tutto la casa sopra sotto e la cucina è inagibile, quindi ho comprato il sushi e così sì, è facile da mangiare. Ma in questi giorni vado a fare la pomeridiana, che ho la pomeridiana, quindi devo staffare. Ma in questi giorni cucina cinese, no? Ma io la adoro la cucina cinese, ma indipendentemente da questi giorni non la ama mio marito, e quindi... E quindi non se ne parla, no, e quindi non se ne parla. Sì. No, però ogni tanto qualche spring rolls è buono, no, la cucina cinese può essere anche buonissima. Parlavamo dello spettacolo Vetri Rotti, che appunto ti vede protagonista al Teatro Eliseo, ed è il collegamento alla famosa Notte dei Cristalli. Nelle settimane scorse si è molto parlato del ritorno di rigurgiti contro gli ebrei, ci sono state scene non propriamente, non saprei come definirle, se effetto dell'ignoranza, effetto di questa violenza incomprensibile, scritte contro gli ebrei sulle porte di casa. Insomma, nello spettacolo Vetri Rotti tu interpreti una donna con una storia particolare. Sì, guarda, io interpreto Sylvia Gelbourg, che è una donna che nel 1938 a Brooklyn vede sul Times, sui giornali, le foto di quello che sta succedendo in Germania, e da quel momento non riesce più a muovere le gambe, ma la sua immobilità ha radici assai anche più profonde, cioè non solo in quello che sta succedendo dall'altra parte dell'oceano. Sylvia è una specie di Cassandra che vede quello che accadrà. In realtà Miller il testo l'ha scritto nel 94, quindi sapeva già tutto quello che sarebbe accaduto, e quindi fa essere Sylvia quasi una Cassandra, no? Che dice starà per succedere qualcosa di grave, mentre la minimizzano, come minimizziamo sempre noi quando pensiamo che le cose non ci riguardino. E anche riguardo a questo rigurgito di antisemitismo, ma comunque del paura del diverso in generale. E qui io credo che tutto questo abbia origine da due fattori: uno è l'ignoranza e l'altro è la paura. La paura, certo. E di cui Miller ci parla nel testo, no? Dice: io ho paura, anche il protagonista dice: io ho paura, e dice: ma con la paura si nasce. Il problema è come si affronta la paura, e noi forse non la sappiamo affrontare bene. Quindi noi non sappiamo affrontare la paura perché non abbiamo neanche gli strumenti della cultura che ci possono aiutare ad affrontarla. Quindi siamo, è la fragilità dell'uomo che purtroppo emerge e dovremmo molto di più lavorare sulla cultura, ma sull'intelligenza emotiva, sulla capacità di empatizzare con l'altro, no? Evitare nei panni dell'altro. E a proposito di paura, le donne non devono avere paura e anche non devono avere come dire, l'ipocrisia di negare che spesso sono gli uomini che decidono i loro comportamenti. In questi giorni, vabbè, si è appena concluso Sanremo, se ne è parlato anche troppo per i miei gusti e quindi evito di tornarci sopra. Sì, sì. Però credo che almeno una traccia del fatto che come dire, l'evocazione della bellezza come unico criterio perché le donne possano stare sul palcoscenico di Sanremo, almeno questo sia servito. E poi c'è anche un po' di ipocrisia, tu giustamente in una intervista l'hai fatto notare, no? Tutte queste donne belle che dicono ma no, io ho fatto strada per il mio talento. Non è così, nel mondo del cinema sono davvero poche quelle che hanno fatto, e non solo nel mondo del cinema, ma in generale anche nello showbiz, la bellezza aiuta, giusto? Aiuta, ma certo, insomma, non bisogna non essere ipocriti. Poi io però devo dire che ho visto anche delle donne belle, anche all'Ariston, registrate, perché ero in teatro la sera, ma non solo belle, cioè, c'erano giornaliste, c'erano donne laureate, che sinceramente sono un pochino più generosa, mi viene da essere più generosa nei confronti adesso di tutti questi attacchi a destra e a manca. Ciò detto, per quello che riguarda le donne, non mi metto a discutere più sarà, la musica. Certo, no, no, però sarà un gran giorno, Elena Sofia Ricci, quando per avere un lavoro non sarà necessario andare a letto con un uomo. Il film Scandal che ho visto che riguarda il mio mondo, il mondo del giornalismo, metteva in luce come la selezione delle giornaliste nella Fox di Roger Ailes avvenisse solo ed esclusivamente su due criteri: se le gambe potevano essere messe in primo piano nelle riprese e se le future conduttrici, perché poi distinguiamo non sempre una conduttrice e anche una giornalista, ma insomma le future conduttrici erano disposte a essere carine con Roger Ailes. Sì, sì, ma questo è da sempre un po' così. Diciamo che ecco, tu accetteresti che tua figlia Italia, tu accetteresti che tua figlia sia sottoposta a questo ricatto? Vuoi un bel lavoro, vai a letto con... Ma mia figlia non si sottoporrà mai a questo, perché ho dato lei gli strumenti per sottrarsi, cioè questo dipende dalle persone. Cioè, a me nessuno mai si è azzardato a farmi un'offerta del genere, perché si sente quando a chi la puoi fare, a chi non la puoi fare. E anche quando eri giovanissima e quindi mai, teoricamente più fragile? Mai, mai, perché io evidentemente ho sempre, anche per la mia storia passata, che forse qualcuno avrà conosciuto. Certo, tu hai subito una violenza quando avevi 12 anni. Ecco. Quindi io metto subito, cioè è chiara la faccenda, io non ricordo di aver avuto mai una proposta del genere, sono sincera, io sono andata avanti con le mie gambe per i meriti. Quello che c'è da dire è che non riguarda solo le donne, ahimè, perché a me fare così non piace molto, è che il nostro paese in particolare non è un paese meritocratico. Certo. Ma non solo per le donne, anche per gli uomini. Ma lo so bene, ci sono degli uomini bravissimi che non vogliono sottoporsi al bacio della pantofola. Non vanno nei salotti, non frequentano la gente, sono bravi e non lavorano, perché lavorano quelli che sono molto più bravi. Non basta più solo il talento oggi specifico del mestiere che fai, purtroppo ci vuole anche il talento di darsi da fare, cioè darsi da fare non le relazioni sociali, è questo. Esatto. Relazioni sociali, allora le relazioni sociali sono una cosa che può essere anche accettata, ma lavorare solo se hai relazioni sociali e nessun merito, questo anche non va bene, no? Eppure, eppure noi viviamo in un paese in cui conta molto di più chi frequenti che non quanto sei bravo. Diciamolo perché è una realtà che vale un po' in tutti i settori. Ma è una cosa che non è solo delle donne, purtroppo. Ma no, no, no. Io sono fortunata, e come me, molte donne e uomini che finiscono in prima linea, cioè gli attori, che a un certo punto della carriera sono, come dire, raccomandati dal pubblico. Ecco, sì. Cioè, bisogna avere, sì, bisogna avere questa forza. Il pubblico mi ama, sì. E me lo sono conquistato a 40 anni, che compio quest'anno di carriera, con il lavoro, con l'onestà intellettuale di cui vado fiera, sinceramente. Poi ho altri difetti, però da questo punto di vista no, e ho faticato e lavorato duro. Certo, quello che dico, Elena Sofia Ricci, è che questo tipo di forza che ti viene dal pubblico, così come per un giornalista viene dal fatto di avere il gradimento degli ascoltatori, dei telespettatori, esatto, o dei lettori. Ricordo sempre che Giampaolo Pansa me lo disse in più di un'occasione, mi diceva: grazie, tu devi avere come unico padrone il lettore, perché quando il tuo editore non ti vorrà più, tu il lettore te lo porti da un altro editore. Questo me lo ricordo sempre, ero una giovane giornalista ed è per me è stato un insegnamento. Dicevo, però ci sono mestieri che questo non hanno questa fortuna, no? Alcuni altri nell'arte o che io non so, di primari che fanno occupare dei posti che non si, cioè veramente in medicina che non si capisce dove uno rischia la vita, no? Capisci? Quindi questo è primari, donne, uomini, cioè non fa differenza. Poi il tema delle donne è un tema molto complesso che richiederebbe discorsi assai più ampi. Certo, noi abbiamo subito per tanti anni, adesso e adesso no, adesso sì, riuscire sì. Adesso chi pensa di poterlo dire e fare, lo faccia, cioè dica e faccia delle cose perché non ci siano più condizionamenti come quelli appunto del film Scandal che ho citato prima. Sì. Ma sai che cos'è? È nell'educazione, bisogna lavorare sulle nuove generazioni, noi siamo parzialmente spacciati, diciamo, sono i bambini e le bambine che noi educhiamo, io ho due figlie femmine e quindi so bene che cosa significa, vanno educate ad avere come dire, una profonda stima di se stessa, perché chi finisce nelle mani di qualche manipolatore per avere lavoro è perché ha una personalità estremamente fragile e pensa di non valere niente e di potersi aggiudicare solo un lavoro solamente andando a letto, frequentando il salotto, eccetera eccetera. Come è vero, come è vero, Elena Sofia Ricci, e penso che come dire, questa energia che viene dalle tue parole la ritroverete se siete a Roma in questi giorni, proprio al Teatro Eliseo, con questo bellissimo spettacolo ispirato al pièce di Arthur Miller. Lo spettacolo è Vetri Rotti, ve lo ricordo, fino al 16 febbraio al Teatro Eliseo di Roma, lo spettacolo con Maurizio Donadoni e David Coco. Grazie Elena Sofia Ricci per essere stata ancora una domenica con noi. Ciao. Ciao a tutti gli ascoltatori. Sono certo che ognuno di voi avrà in casa oggetti straordinari. Avrete sicuramente cimeli di viaggio, cose improbabili che avete ereditato, stranezze indicibili nascoste negli armadi. Fotografate subito le vostre collezioni originali, ricordi di vite passate, i reperti storici che vi tramandate da generazioni. Settimana dopo settimana vorrei raccontare a Melog le vostre storie fuori dall'ordinario, partendo dalle foto degli oggetti straordinari che voi manderete. Gli oggetti che gli ascoltatori di Melog segnaleranno saranno valutati dagli esperti della casa d'aste Cambi e i più interessanti potranno entrare a far parte del catalogo di Out of the Ordinary, un'asta di oggetti non comuni che aiuterà a sostenere un progetto per persone con cervelli fuori dal comune. L'asta sarà presentata a Milano il 2 aprile in occasione della giornata internazionale per la consapevolezza sull'autismo. Tutte le informazioni su radio24.it e su asta.cervelliribelli.it. Nessuna è perfetta. l'ultima parte di Nessuna è Perfetta. Io vi ricordo il numero 828 12 12 per i vostri messaggi, i vostri commenti, il vostro mi piace, non mi piace, suggerimenti, consigli, quello che pensate di aver ascoltato e sul quale avete voglia di dire la vostra. Così come ve l'avevo chiesto qualche puntata fa, torno a chiedervelo: chi è secondo voi la donna da ricordare, la donna che ha ispirato di più, che ha segnato di più? Parlo anche di donne del passato. Ecco, voglio sapere chi sono le vostre donne che considerate ispirazione. E a proposito di donne da ricordare, do il benvenuto ad Alessandra Necci, professore universitario, avvocato e da sempre interessata al mondo delle grandi biografie. Buongiorno, buona domenica Alessandra Necci. Buongiorno Maria, buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Ecco, l'ultima biografia romanzata che ha pubblicato da Marsilio è Caterina de Medici, un'italiana alla conquista della Francia. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, se non conoscete questa donna straordinaria, davvero vale la pena di buttarsi nella lettura del libro di Alessandra Necci, perché si scopre come il potere di una donna ha influenzato sulla politica del Cinquecento in maniera che davvero molto spesso facciamo male a non ricordare. Chi era Caterina de Medici, Alessandra Necci? Caterina de Medici è naturalmente figlia della grande dinastia Medici di Firenze, nasce all'inizio del Cinquecento, 1519, e poi ancora bambina affronta delle prove difficilissime quando i Medici vengono cacciati da Firenze, che la forgiano in un certo senso, e così quando arriva sposa giovanissima alla corte di Francia, perché deve sposare il figlio, il secondo figlio del re Enrico, è una donna, una ragazza già perfettamente capace di affrontare il mondo. Donna intelligente, coltissima, non bella, fascinosa, ma soprattutto perfettamente capace di camuffarsi e mimetizzarsi. Quindi per anni questa ragazza straordinaria portasi dall'Italia la grande cultura, la grande cucina, il grande artigianato che ci ha sempre caratterizzato, ma si tiene, come diremmo oggi, con un saggio basso profilo e quindi non si fa capire per ciò che è, cioè la vera erede di Machiavelli. Alessandra Necci, Caterina de Medici subisce anche l'umiliazione del tradimento, perché il re, suo sposo, la tradisce. Sì, Caterina de Medici si trova appena giunta a 14 anni in Francia, si trova confrontata con questa situazione durissima, cioè che suo marito, di cui lei si innamora a prima vista, è follemente innamorato di una bella dama di corte di 20 anni più grande di lui, che si chiama Diana di Poitiers, e che lo domina sotto tutti i profili. Però Caterina si rende conto anche che se si mette contro questa donna così potente rischia pesantemente, e quindi per anni e anni e anni lei dissimula, sorride, fa finta di niente, certo ha dei momenti di gelosia come quando spia di nascosto il marito con l'amante, però in gran parte di quegli anni lei riesce a far finta di niente. Addirittura quando nascono i tanto desiderati figli, Caterina avrà 10 figli, accetta che Diane de Poitiers decida tutto della loro crescita, scelga le tate, le governanti, la servitù, e Caterina continua a far finta di niente. Però dopo la morte del marito si prende una rivincita straordinaria e anche molto signorile, e cioè manda via dalla corte Diana, ma le lascia quasi tutti i regali, moltissimi regali che le aveva fatto il marito, e dice: non posso dimenticare che faceva la delizia del mio caro Enrico, e cioè la tratta come una geisha. Che cinica, perfida, ma uno straordinario talento politico. Possiamo ricordare anche brevemente, Alessandra Necci, tutte le decisioni che Caterina de Medici ha preso, l'influenza che ha avuto e i suoi straordinari collaboratori che aveva scelto con grande acume. Caterina, bisogna sempre ribadire che è un'italiana, una fiorentina e una figlia ideale di Niccolò Machiavelli, tant'è che il padre di Caterina è colui a cui Machiavelli dedica Il Principe. diciamo che è una donna molto avanti sui tempi. Bisogna sempre ricordarci che quell'epoca, a metà Cinquecento, fine Cinquecento, in Francia è segnata da tremende guerre di religione fra i cattolici e gli ugonotti, che insanguinano veramente tutto il tessuto francese. Ma Caterina tende sempre, come stella polare, alla pacificazione fra le due religioni. È una donna veramente in anticipo sui tempi. Già inizia a immaginare quella che molti secoli dopo sarà la laicità dello Stato. E tutti i suoi editti sono assolutamente ispirati a questo criterio. Ha dei consiglieri italiani molto influenti e anche molto potenti, però è talmente brava che poi si circonda di uomini cattolici alcuni e invece protestanti altri, e tutta la vita cerca di ottenere la pacificazione della Francia, fino a far sposare la sua ultima figlia, la famosa regina Margot, con Enrico di Navarra, che è un protestante, un ugonotto, e diventerà re come Enrico IV. Finisce la vita di Caterina di Medici e dove? La vita di Caterina de' Medici finisce drammaticamente, perché purtroppo per lei il secolo è veramente troppo difficile. Ricordiamoci che il Cinquecento è il cambiamento, quindi è un secolo bello e travagliato. Finisce a Blois, nel castello di Blois, ben sapendo che lei non ha ottenuto il suo scopo di pacificare la Francia e soprattutto non è riuscita a conservare la corona ai Valois, che si estinguono. Però è Caterina de' Medici che pone le basi, tutte le basi, per la pacificazione del paese e soprattutto per la nascita del Grand Siècle, il gran secolo di Luigi XIV. Allora, veramente affascinante questo viaggio nella personalità complessa di una donna che è stata davvero potente nel Cinquecento francese. Grazie ad Alessandra Necci, e vi invito davvero a tuffarvi in questa storia col suo romanzo biografia Un'italiana alla conquista della Francia, Caterina de' Medici, l'ultimo libro pubblicato da Marsilio. Grazie Alessandra Necci, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Grazie Maria. Qual è la donna da ricordare secondo voi? Caterina de' Medici, per esempio, ha avuto un ruolo, la conoscevate, che ne sapete? Oppure chi altre? Ma non soltanto nella storia, anche nella quotidianità attuale ce ne sono di donne da ricordare. E come? 828 12 12, i vostri messaggi che ci fanno enorme piacere. Intanto sentite quello che ci è arrivato sulla puntata di domenica scorsa. Evviva Papa Francesco! Non mi vergogno di dirle che sono fedele, ma non troppo, signora Lafella. Però ancora una volta rimango stupito dalla lucidità e dall'efficacia di questo Papa, che in tempi così difficili tiene a sottolineare, a mio avviso ha ragione, il ruolo fondamentale della donna. Grazie. Papa Francesco abbia scelto proprio di sottolineare il ruolo delle donne nel suo primo intervento, nella sua prima omelia del 2020, a me sembra un segnale importante, e per fortuna che ogni tanto qualcuno se ne accorge. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con un grazie ancora dal cuore, pum pum pum, perché ci state seguendo davvero con grande affetto, e grazie a tutto il nostro bellissimo gruppetto: Gaia Romani, Alessandro Chiappini, Carmelo Lauricella, Gianmarco Ferronato, Laura Faggin. Grazie ragazzi, buona domenica. Noi, se vorrete, ci ritroviamo domattina, lunedì 8:20, con Simone Spezia 24 Mattino. Ciao!